Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Maggio si apre con la prima di due puntate speciali contro esodati, questo il suo titolo, rappresenta un approfondimento dovuto ai circa 8.000 professionisti che negli ultimi 5 anni hanno scelto di tornare nella penisola. Come ha recentemente calcolato il forum della meritocrazia, cercheremo di fare luce sulle normative che si applicano attualmente a chi torna in Italia. Pensionata la legge contro esodo, quali incentivi fiscali si applicano? E si avvia a conclusione la nostra iniziativa per mandare 4 ascoltatori in viaggio studio a Strasburgo, grazie a Giovani Talenti in Europa. Affrettatevi a partecipare, tra poco tutte le indicazioni utili. La frase della settimana è copyright del rettore dell'Università Cattolica Franco Anelli. È importante riconoscere che il sistema universitario italiano forma persone apprezzate all'estero, è altrettanto vero, ha aggiunto Anelli, che è un'operazione economicamente e culturalmente in perdita, perché noi formiamo persone di alto valore a spese del contribuente e poi li doniamo ad altri paesi. Inoltre sollecitiamo i giovani a studiare e poi non diamo loro la possibilità di seguire percorsi di studio e di ricerca adeguati. L'università, conclude Anelli, non può fare granché rispetto alla capacità del tessuto economico di assorbire laureati. Intanto è ancora bloccato, nonostante i fiumi di parole spesi a riguardo, l'ascensore sociale in Italia. La famiglia di origine riveste tuttora un peso rilevante sulle scelte degli studenti. Tra i diplomati 2014 che provengono da contesti socio-economici avvantaggiati è più frequente l'iscrizione all'università dopo il diploma, 81%, rispetto a chi proviene da contesti meno favoriti, 52%. Pesa pure il titolo di studio dei genitori. L'86% dei diplomati provenienti da famiglie in cui almeno un genitore è laureato si iscrive in ateneo, contro il 64% dei giovani con genitori in possesso di un diploma. È quanto emerge dal rapporto 2016 Alma Diploma. E per restare al tema ritorno in Italia, che monopolizzerà la puntata odierna, ascoltiamo l'appuntamento con la rubrica Contro Esodati. Prima però un rapido accenno al nuovo programma nazionale della ricerca, varato lunedì, Capitale Umano Infrastrutture, un programma strategico per il Sud e maggiore sinergia tra pubblico e privato, questi i cardini. Il finanziamento è pari a 2 miliardi e mezzo per il triennio 2016-18, l'obiettivo è rendere l'Italia più attrattiva e competitiva al pari degli altri paesi, sia per i ricercatori italiani all'estero, sia per quelli stranieri, così ha affermato il ministro della ricerca Stefania Giannini. Sentiamolo. L'apertura del sistema, il fatto di diventare finalmente attrattivi e competitivi come gli altri paesi, visto che eccellenze le abbiamo, ma dobbiamo creare una condizione che faccia sì che non solo gli italiani all'estero, ma anche gli stranieri possano ritenere l'Italia la sede in cui portare il loro cervello, la loro capacità, la loro competenza. E ora Contro Esodati alla sua 8ª puntata mensile. Oggi vi raccontiamo la storia di Filippo Bozzotti, 35enne professionista di rientro nella penisola dove ha cofondato Tribe Wanted. Alle spalle Filippo ha un espatrio iniziato da giovanissimo, prima in Europa, poi negli Stati Uniti. La storia del suo ritorno e l'Italia che ha ritrovato, imprenditorialmente parlando, sono al centro dell'intervista che ha rilasciato a Giovani Talenti. La rubrica è realizzata in collaborazione con Alessia Marsigaglia dell'associazione iTalents, dal cui network attingiamo le storie che vi raccontiamo per info italents.org. Ascoltiamo ora la storia di Filippo Bozzotti. Sono andato via dall'Italia che avevo 11 anni. Ho vissuto prima in Francia, poi in Svizzera, poi ho fatto la scuola a Boston, all'università. Da lì sono rimasto, cioè sono andato a New York e ho lavorato su documentari sociali, facevo il produttore di documentari. Tra Boston, l'università e New York il lavoro sono stato quasi 10 anni, sì. Cosa ti convince a tornare in Italia dopo così tanti anni all'estero a un certo punto? Abbiamo fondato questo progetto di Tribe Wanted, era il primo progetto di comunità ecosostenibile a cui partecipavo e abbiamo passato 2 anni lì. Ci siamo detti una cosa, è dimostrare che si può vivere in un paese, in una comunità ecosostenibile, in un paese in via di sviluppo, su una spiaggia. Un'altra cosa è farlo nel nostro giardino di casa. Dunque, essendo italiano, essendo stato fuori dall'Italia per 20 anni, abbiamo deciso di fare il prossimo progetto di Tribe Wanted in Italia, qui a Monestevole, appunto, sulle colline umbre. Esattamente che tipo di progetto è? Tribe Wanted sviluppa comunità ecosostenibile, è una cooperativa inglese. Abbiamo aperto il primo progetto alle Figi, poi a Sierra Leone, poi qui a Monestevole in Umbria. Sviluppiamo comunità ecosostenibili per ecoturismo, per farsi un'immersione a 360 gradi in una vita alternativa, più ecosostenibile, per sporcarsi le mani e per farsi anche una vacanza alternativa. Che paese hai trovato al tuo rientro? Dopo tanti anni all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, quindi un ambiente molto dinamico, hai trovato un'Italia aperta? Ma guarda, dipende da tante cose. Io sono tornato, tutti mi dicevano di non tornare, che non c'erano opportunità, eccetera, eccetera. Invece no, noi qui in cima alla nostra collina a 600 metri in Umbria siamo riusciti a crearci un pochettino il mondo che vogliamo. Perciò per quanto riguarda fare un progetto di imprenditoria ce l'abbiamo fatta, so che siamo un pochettino una bolla qui appunto in cima alla collina e ho avuto più problemi di quello che pensavo per quanto riguarda la burocrazia, per quanto riguarda la difficoltà di fare qualsiasi cosa. Dicono che vogliono investire su giovani, purtroppo in Italia sono ancora considerato giovane, ma non ho avuto una virgola di aiuti, anzi solo e sempre da un ente all'altro che cercano di fare di tutti per farti scappare, metterti i bastoni fra le ruote, dunque molta differenza da quello che dicono che vogliono fare e poi da quello che fanno veramente. Ciò nonostante, e come me ci sono tantissimi progetti che nonostante la cosiddetta crisi, nonostante la burocrazia, nonostante il pessimismo, nonostante tutte queste cose qua, la lamentela continua, invece di lamentarsi fanno e ci riescono, però purtroppo ci riescono a scapito dello Stato, non grazie allo Stato. Controesodati, questo è il titolo della puntata di oggi, che vuole essere innanzitutto una puntata di servizio. Allora, presento subito i nostri ospiti. Francesco Rossi, tra i fondatori del gruppo Controesodati. Buon pomeriggio, Francesco. Buon pomeriggio a tutti. E Sabine Moras e Mario Fiasconaro, loro stessi, Controesodati in Italia. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, iniziamo con Francesco Rossi. Tu sei uno dei promotori del gruppo Controesodati che alla fine del 2015 ha contribuito, esercitando una forte pressione di lobby sulla politica, a salvare in extremis la legge 238/10, detta Controesodo, regalandole altri 2 anni di vita. Allora, ti chiedo di essere estremamente schematico e sintetico. A chi si applica ora Controesodo, la vecchia legge Controesodo, quali benefici dà, e a chi si applica nell'idea originale il decreto 147 e quali incentivi fiscali offre? Mettiamo un po' le due norme a confronto, perché l'anno scorso c'è stato un po' di pasticcio legislativo. Francesco. La legge Controesodo era nata con l'obiettivo dichiarato di incentivare il rientro in Italia di giovani laureati che avessero passato almeno 2 anni all'estero a studiare e lavorare. Si volevano incentivare a rientrare in Italia proprio nel loro momento di massima crescita professionale, come lavoratori dipendenti o come imprenditori. Si concedeva un'agevolazione fiscale importante che era del 70% per gli uomini e dell'80% per le donne come riduzione dell'imponibile. La legge 2 anni di vita in più li aveva già, perché era stata appena prorogata proprio l'anno scorso, a febbraio, fino al 2017, poi inspiegabilmente cancellata nel settembre del 2015. Come gruppo Controesodati ci siamo quindi spesi per chiedere all'istituzione di ripristinare la situazione precedente a questa cancellazione. In numeri, Francesco, però, benefici fiscali della prima e benefici fiscali della seconda, perché è importante proprio metterla a raffronto. In termini estremamente schematici, benefici del 70-80% per quanto riguarda la legge Controesodo, benefici del 30% per quanto riguarda il nuovo regime del decreto legislativo 147. Per contro, figure professionali diverse, quindi giovani laureati Controesodo e professionisti diciamo all'apice della carriera, in ruoli direttivi o di elevata qualificazione per il nuovo regime, la durata, anche qua c'è una differenza, la Controesodo era una legge che aveva una data di scadenza e quindi veniva prorogata, e il nuovo regime invece viene reso stabile, permanente per 5 anni. Ecco, ricordiamo i numeri che ho citato all'inizio, era l'abbattimento dell'imponibile quando poi si presenta la dichiarazione dei redditi. E secondo te, Francesco, come è stata gestita la transizione tra le due norme dal legislatore? In maniera probabilmente migliorabile o comunque discutibile, noi abbiamo appreso da articoli di stampa, dai lavori parlamentari, che c'era in preparazione un nuovo regime agevolativo da affiancare però a quello esistente e non in sostituzione. L'intento quindi era assolutamente condivisibile. Poi all'improvviso è arrivata l'abrogazione della legge 238 senza preavviso, e questo ha comportato dei grossi problemi per tanti controesodati che sulla legge e sulla sua proroga avevano fatto affidamento, fra l'altro lasciando un messaggio a mio avviso pessimo per la certezza del diritto e dando anche un segnale cattivo nell'intento di effettivamente chiaramente attrarre capitale umano, quindi una legge che viene cancellata subito dopo essere prorogata. Sì, di certo l'Italia non esce bene in tema di attrattività verso i suoi stessi talenti. Andiamo ora a raccontare però le storie di chi è tornato, cominciando con Sabine Moras, 37enne career consultant per SDA Bocconi. 18 anni li hai passati, Sabine, all'estero, inizialmente nel settore sales and marketing, poi hai cambiato ambito. Di cosa ti occupavi in Spagna? Allora, in Spagna negli ultimi 4 anni dopo aver vissuto lì mi occupavo di career counseling, quindi coaching di studenti che sono iscritti a una business school, che è una scuola privata molto simile alla nostra Bocconi qua. Ecco, nel febbraio 2014 ti contatta proprio la Bocconi, ti fa una proposta di lavoro. All'epoca non conoscevi neanche la legge 238 e io ti chiedo quanto, al di là dell'offerta di lavoro in sé, incentivi fiscali così importanti, con l'abbattimento nel tuo caso essendo donna dell'80% sull'imponibile, ti hanno convinto a tornare in Italia? Beh, chiaramente a parità di offerta e quindi di stipendio che mi veniva offerto dal nuovo datore di lavoro, un abbattimento grazie a questo beneficio fiscale è stata sicuramente un'agevolazione enorme per far poi pendere l'ago della bilancia sulla decisione di rientrare e quindi tornare a casa. Per noi rientrati in Italia occorre lavorare su come organizzarci al meglio e darci supporto nel mercato italiano per non vanificare le competenze acquisite all'estero, scrivi Sabine a giovanitalenti@radio24.it. C'è un problema, ti chiedo, di contesto lavorativo italiano ancora poco aperto e ricettivo nei confronti di professionisti dal background internazionale? Sì, sicuramente dal mio punto di vista il problema attuale è che questa legge è poco conosciuta in ambito aziendale, ovvero l'individuo, la persona che rientra, lo viene a sapere da canali vari, ma è una cosa che, diciamo, il governo comunica agli individui, ai professionisti, mentre lato aziendale questa legge è ancora totalmente sconosciuta e quindi le aziende non fanno un'attività di talent recruitment mirata ad avere professionisti che rientrano in paese. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata speciale ci concentriamo sulle normative attualmente in vigore per chi decide di rientrare in Italia con incentivi fiscali dopo il pasticcio dell'abolizione della legge contro esodo. Proviamo dunque a fare un po' di chiarezza. Riprendiamo l'ascolto. Giovani Talenti. Da Sabine Moras a Mario Fiasconaro, 38 anni, la tua vita precedente è stata all'insieme di Google in Irlanda. Di cosa ti occupavi nell'isola di Smeraldo? Nel corso dei 5 anni in cui ho lavorato presso la sede europea di Google ho ricoperto, diciamo, diversi ruoli, inizialmente un po' più tecnici legati ai prodotti pubblicitari offerti dal motore di ricerca, successivamente un po' più consulenziali relativi proprio alla crescita e allo sviluppo del business, diciamo, dei nostri clienti. Ho sostanzialmente supportato diverse realtà, piccole e medie imprese italiane, nella pianificazione e nell'ottimizzazione delle loro campagne pubblicitarie online. Ho contribuito, diciamo, a espandere un po' il loro business online, a sfruttare in modo efficiente il loro potenziale online. E allora, Mario, nel 2012 una chiacchierata con un collega ti porta a conoscenza della legge 238/10. Più o meno nello stesso periodo ti arriva un'offerta da una multinazionale tedesca con sede in Italia. Anche a te chiedo quanto ha influito la legge contro esodo sulla tua scelta di rientro in termini di benefici fiscali. Che nel mio caso la legge è stata, diciamo, determinante, perché fino a quel momento ero abbastanza scettico un po' circa la possibilità di tornare in Italia, anche forse un po' di questa esperienza di scambio del contesto internazionale che avevo vissuto in quel momento. Il vantaggio era abbastanza forte, con l'imponibile al 70%, diciamo che mi ha permesso di stabilizzare la posizione in Italia prendendo decisioni importanti a mio rientro, tra cui anche l'acquisto di una casa, insomma compensando anche vari benefit, tra cui uno schema pensionistico, delle polizze per la salute che la realtà italiana, quindi l'azienda italiana che mi avrebbe assunto, non poteva garantirmi. Tu, Mario, sei una vittima, diciamo tra virgolette, della confusione legislativa che si è venuta a creare con la sovrapposizione delle due norme. Perché, ti chiedo? Ma la mia è una situazione un po' da controesodato, un po' singolare, cioè rientravo nei termini previsti dalla 238 fino a dicembre del 2015, da gennaio, a causa di questa sovrapposizione, davanti al rischio dell'azienda di incorrere in potenziali sanzioni future proprio legate a questa incertezza, l'azienda stessa ha deciso di optare per il regime meno agevolativo della 147 in attesa di chiarimenti, appunto, dell'Agenzia delle Entrate, creando un sistema di conguaglio poco chiaro direttamente agli operatori stessi, quindi ai consulenti del lavoro, alla società che opera, diciamo, per gestire le buste paga. Questo è un punto importante perché, e qui cito la lettera che ci ha scritto Matteo, 33 anni appena compiuti, due lauree in Italia, Master in Finance alla London School of Economics, più di 5 anni di vita professionale a Londra, nostalgico della mia Italia e attratto dall'ultima versione della legge rientro cervelli, la norma 147, ho iniziato a prendere contatto con controparti italiane al fine di un rientro in Italia. Giunto a buon punto sul fronte possibilità di rientro, ho ridato un'occhiata alla legge e cosa scopro? La legge al momento è inapplicabile. Insomma, c'è ancora molta confusione legislativa tra la vecchia norma 238/10 e la nuova norma, anche per questo vi proponiamo questa puntata. Per fare chiarezza abbiamo contattato il Ministero dell'Economia e sarebbe dovuto essere con noi il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, purtroppo non è riuscito a raggiungerci per impegni al Ministero. Ci spiace molto perché andrebbe veramente fatta chiarezza una volta per tutte su queste norme. Quello che facciamo adesso è porre le domande di questi controesodati, Francesco, Sabine, Mario, al governo, al Ministero dell'Economia, sperando che qualcuno ci risponda. Invitiamo a farlo a giovanitalenti@radio24.it. Noi siamo qui, rispondete a queste domande che, partendo da Francesco, ora vi poniamo. Francesco. Vorrei fare una domanda sul vecchio regime della legge 238 e sul nuovo regime. La legge di stabilità ha previsto che i controesodati, cioè tutti coloro che sono rientrati in Italia fino al 2015, possono optare per il nuovo regime agevolativo previsto dal decreto legislativo 147 in alternativa, ma perché un controesodato dovrebbe optare per il nuovo regime, posto che le agevolazioni che concede sono significativamente inferiori? Avete per caso in programma di rivedere questo regime e di potenziarlo? Aggiungerei in particolare per le donne, per le quali la PIL di spostarsi dal 238 al 147 è ancora minore? Sabine. Vorrei capire come noi, che abbiamo già vissuto questa esperienza, e anche i prossimi, diciamo, connazionali che rientreranno eventualmente sulla base della 147, potremmo aiutare il governo a capire come promuovere, come far sì che le aziende vengano a contatto con questa norma e possano utilizzarla per attrarre del talento. Noi credo che tutti i controesodati che ci siamo incontrati anche negli ultimi mesi siamo a disposizione pienamente per il governo per cercare di capire come possiamo aiutare le aziende, se questa è una cosa che il governo ha per attenzione di fare. Appunto, vorrei capire come il governo vorrebbe muoversi in questa direzione. Mario. Sì, la mia è invece una domanda relativa al mondo digitale, quello dell'information technology e delle nuove tecnologie in generale. Siamo tutti concordi che comunque la rivoluzione digitale può costituire un moltiplicatore di ricchezza nel paese, e proprio alla luce di tutto questo mi chiedevo quali sono le direzioni, insomma, del Ministero, del Governo, per attrarre nuove competenze, nuovi know-how di giovani italiani che in questo settore specialmente sono ancora oggi all'estero e che molto potrebbero contribuire in modo determinante un po' alla crescita di questo paese. Io ringrazio Francesco Rossi, Sabine Moras, Mario Fiasconaro, grazie, in bocca al lupo per le vostre attività qui in Italia, visto che ci avete creduto, siete tornati nel paese. Invito il Ministero dell'Economia a contattarci, giovanitalenti@radio24.it, ci sono domande importanti che meritano una risposta da parte di giovani che sono tornati credendoci nell'Italia, a fronte anche, è vero, di benefici fiscali. Mi limito a citare un interessante studio sulla legge controesodo realizzato dal Forum della Meritocrazia. Nel 2013 1678 connazionali sono rientrati dall'estero beneficiando degli incentivi della legge, se ne stimano un totale di 8000 circa dalla nascita della norma, ma la cosa più importante è il loro effetto sul PIL. Si stima un incremento pari a 400-500 milioni in 5 anni. La legge, insomma, dicono le cifre, si è ripagata. L'impatto positivo sul PIL ha superato i minori introiti legati alle esenzioni fiscali. Quindi resta ancora un'altra la domanda: perché questa sovrapposizione, perché questo pasticcio legislativo? Aspettiamo le risposte anche dal Ministero. giovanitalenti@radio24.it. Ultime battute per l'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia fino alla prossima settimana e che da quest'anno vi chiede di immaginare la vostra Europa. Sceglieremo 4 di voi per un viaggio a Strasburgo. Per partecipare dovete avere tra i 18 e i 35 anni e dovete inviare da ora fino alla mezzanotte di domani una email a concorsoeuropa@radio24.it con una proposta concreta. Il tema di questa settimana: indicateci una proposta in 140 caratteri per incrementare le possibilità di mobilità in Europa per studio, lavoro o volontariato. Quindi il tema è la mobilità in Europa. Inviateci le vostre proposte con i dati di contatto a concorsoeuropa@radio24.it e pubblicatele su Twitter con l'hashtag GiovaniTalentiUE. Attenzione, potete scriverci solo fino alla mezzanotte di domani e nell'oggetto non dimenticate di scrivere la parola chiave, che questa settimana è Europa 1000. Ripeto, Europa 1000. primi quattro classificati si aggiudicheranno altrettanti viaggi studio al Parlamento Europeo di Strasburgo. Vi ricordo ancora la casella email concorsoeuropa@radio24.it. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info, i contatti e il regolamento su www.radio24.it. Siamo giunti ad Expat, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Torna all'appuntamento con la puntata mensile dell'Ideogramma, osservatorio sulle storie e le opportunità in Cina. Emanuela Verrecchia oggi ci racconta una storia che può essere di ispirazione per possibili e innovative strade di espatrio in Estremo Oriente. Oggi vorrei raccontare una storia che credo sia interessante e stimolante per i giovani in ascolto alla ricerca di nuove fonti di ispirazione per costruire il proprio futuro seguendo magari un percorso molto diverso da quello ordinario. Un paio di settimane fa ho conosciuto a un evento qui a Shanghai Riccardo Barvic, 28 anni, in Cina dal 2006. Riccardo è arrivato in Cina a soli 19 anni perché ha fatto una scelta già di per sé molto singolare, cioè studiare in un'università all'estero e per di più in Cina. Con un diploma di maturità classica e un interesse per il design, Riccardo ha cercato su internet un'università che facesse al caso suo. Era stato a Canton durante un breve viaggio e la città gli era piaciuta. La sua priorità era quindi conoscere, vivere e studiare la Cina. E si è iscritto a un corso triennale presso il Raffles Design Institute di Guangzhou, che offriva corsi in lingua inglese. 10 anni fa, racconta Riccardo, vivere e studiare in Cina era molto più economico di oggi, costava addirittura meno che studiare in certe università italiane. Oggi Riccardo è socio fondatore della B&M Creative Solutions, una società di consulenza nel settore del lusso che intende portare innovazione, creatività, formazione, organizzazione e buon gusto italiano in vari settori, ospitalità, ristorazione, eventi, formazione, design, viaggi, investimenti immobiliari e settore lusso in senso lato. È un processo all'inverso che parte dal cliente per andare a cercare servizi che gli possano venire offerti invece che spingersi alla ricerca di clienti per un servizio che si è deciso a priori essere richiesto dal mercato, racconta Riccardo. Ad esempio viaggi di lusso in Europa per clientela cinese combinati ad esperienze che vanno dall'enogastronomia allo sport, dalle auto d'epoca ai matrimoni in Italia, proposte di investimenti in Italia e Francia o in start-up europee. Sono questi solo esempi di alcuni dei servizi offerti dalla società di Riccardo. Questa storia quindi è la dimostrazione che fare impresa in Cina è sì possibile per un giovane, addirittura un under 30, ma il percorso di Riccardo è senz'altro coraggioso e singolare. Per maggiori informazioni potete consultare il blog Cina di Frontiera all'interno del portale China Files. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti o nella pagina Giovani Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Giovani Talenti UE. Dibattetela in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di maggio. Dati aerei alla mano, oltre la metà degli immigrati italiani nel 2015 aveva tra i 20 e i 40 anni. È la prima volta che succede nella fase più recente di espatrio. È un'emigrazione sempre più concentrata nella fascia giovane e produttiva della popolazione, secondo voi? E se sì, questo nasconde più rischi o opportunità per il sistema paese? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, candidati, vi aspettiamo voi giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24, saremo a Strasburgo per una nuova puntata speciale. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.